Benvenuti a tutti, buonasera, io sono Patrick, vi do il benvenuto nella nostra biblioteca provinciale italiana Claudio Augusta. Questa sera sostituisco per l'introduzione la nostra direttrice Valeria Trevisan, che è dovuta scappare a una riunione. E niente, vi do il benvenuto. Oggi presentiamo un'antologia di studi, questi due volumi che sono a disposizione per il prestito qui da noi in biblioteca, e raccontano vari aspetti, diciamo così, della Naunia, quindi della Val di Non. Esatto, e poi vediamo il titolo, Naunion, e vedremo, ci spiegherà il perché. Vai. E qui abbiamo Walter Iori, presidente giusto dell'associazione culturale Gibi Lampi, Gian Battista. Sì. E niente, come? Pittore. Esatto. E vi ricordo brevemente il prossimo appuntamento della biblioteca, che sarà questo giovedì 27 ottobre, dove presentiamo il libro, il nuovo libro di Mauro Minniti, Storia della bandiera italiana. Come moderatore ci sarà Gabriele Di Luca. Chi non è iscritto alla nostra biblioteca lo invito a farlo, qui abbiamo i moduli di iscrizione. Niente, per chi non ci conoscesse, brevemente, una biblioteca che si interessa, ed è per questo che organizziamo anche iniziative di questo tipo, ad argomenti che trattano, diciamo, che raccontano la storia non solo della nostra provincia, che è la provincia di Bolzano, ma della nostra regione, quindi il Trentino, e altri argomenti che in qualche modo, diciamo, richiamano la storia della nostra terra. Ecco, questo è detto, è tutto, brevemente vi lascio a Walter Iori e buona serata. Grazie. Prego. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e grazie alla biblioteca Claudio Augusta che ci ha invitato. Per la verità dovevamo essere qui a Bolzano ancora in primavera, poi per qualche contrattempo abbiamo dovuto rinviare all'autunno questa presentazione. Per la verità sarebbe stato molto felice di essere qui con noi il professor Bruno Ruffini, che forse qualcuno di voi mi sembra di capire che ci sono qui alcune persone di origine nonesa o nonesi o insomma per cui Anauni. La nostra consigliera provinciale direbbe Reti, no? Caterina Dominici. Comunque noi ci dichiariamo Anauni, ci vogliamo proprio essere nel nostro contesto di casa, e sarebbe stato molto felice perché lui è stato presidente dell'associazione fino a 2 anni fa, è scomparso improvvisamente da un'ora all'altra, che eravamo a trascorrere qualche ora all'aria aperta a vedere proprio dei monumenti e dei beni culturali, e è scomparso improvvisamente. È stato lui che ha ideato e curato queste prime due pubblicazioni che ci hanno impegnato molto come associazione culturale, perché non sono le solite pubblicazioni o monografie con qualche lavoro, con qualche ricerca, con qualche approfondimento su un determinato aspetto, ma l'obiettivo di questa antologia di studi è proprio quello di raccogliere ogni 3-4 anni, perché capite che è un investimento anche importante, vedete dal volume, dall'ampiezza, insomma, dalla portata proprio del prodotto finale, una raccolta di saggi di diversi argomenti, quindi una miscellanea di argomenti i più svariati possibili e anche i più vivaci possibili, che presentino aspetti della storia, dell'arte, delle scienze, dell'aspetto anche sociale, della mobilità, dell'aspetto anche relazionale, in futuro speriamo, della Valle di Non. La Valle di Non è un territorio che in Trentino ha avuto una certa rilevanza, una certa importanza, non solo per la posizione geografica, ma anche per aver dato notevoli personaggi che si sono distinti in Europa e nel mondo, anche soprattutto nei secoli passati, in particolare nel Settecento. Il titolo non è Naunia, ma è Anaunion. Qualcuno si chiedeva come mai Anaunion, ma Anaunion era l'idea che c'era venuta proprio da un nome che aveva dato lo storiografo greco Tolomeo al territorio della Valle di Non. Quindi un toponimo che ha più di 2000 anni, Anaunia in latino, Valle di Non. Ci sono tante ipotesi, gli studiosi stanno ancora cercando di capire da dove questo termine possa derivare Anaunia. Una delle ipotesi, che la butto lì però non può essere sicuramente la più giusta, è che la Valle di Non era considerata dai romani, quando avevano un pochino, io non dico invaso il territorio, no, perché è stato un po' un arrivo e un sovrapporsi di civiltà, si è dimostrato anche pacifico nonostante le battaglie, le schermaglie che ci siano state tra popoli, è chiaro, ma quando i romani sono arrivati in Valle di Non hanno cercato sicuramente di convivere pacificamente con le antiche popolazioni locali rettiche, no? In Valle di Non, Cles, Mechelen, Monte Ozzelo sono dei siti particolarmente interessanti per la cultura rettica, Fritzen, San Zeno, se vogliamo parlare in termini archeologici, della seconda età del ferro, quindi dal VI secolo avanti Cristo fino alla Romanità, insomma, no? E le tracce importanti si stanno scoprendo tuttora, insomma, Cles ai Campi Neri, dove è stata ritrovata anche la tavola clesiana, che è il documento che ha sancito la Romanità per la Valle di Non, non solamente per i Nonesi, perché si parlava di Anauni, Sinduni e Tugliassi. Sinduni e Tugliassi diremmo che non si è mai potuto sapere chi fossero, ma io penso che siano i Solandri e forse i Rendenesi, insomma, data la vicinanza geografica, no? La Naunia era il granaio di Trento, c'è anche nei documenti, quindi granaio in latino è annona, una riserva alimentare. Probabilmente qualche storico, qualche linguista fa derivare appunto da annona a Naunia, quindi una riserva alimentare, una riserva di grano, tanto che nelle abitazioni retiche che sono state scavate a San Zeno, e qui abbiamo Giuseppe Vega, che è vicepresidente dell'associazione, e in quegli anni era anche sindaco di San Zeno, quando si scoprivano tanti siti a San Zeno e tante residenze proprio rettiche, no? Con queste case con basamenti fino a una certa altezza in muri a secco, e poi avevano la caratteristica dell'alzato in legno. In molte di queste dimore, che erano anche dei magazzini di deposito, sono stati trovati quintali e quintali di frumento, di miglio soprattutto. Oggi il miglio è il mangime degli uccelli, no? Un tempo era un cereale utilizzato anche per l'alimentazione umana. Ma indipendentemente da questo, abbiamo proprio voluto intitolare questa raccolta di saggi, di studi firmati da autori apprezzati e stimati, quindi con una fondatezza scientifica, storica e culturale ben comprovata e specifica, come omaggio al territorio, un territorio che è ancora molto da studiare, che è stato studiato tanto e che sicuramente potrà sicuramente dire ancora molto in termini storici, culturali, ma anche scientifici. Abbiamo pubblicato due edizioni, nel 2004 il primo numero e nel 2008 il secondo numero, e stiamo raccogliendo materiale per pubblicare il numero 3 di Anaunion, che uscirà probabilmente nel 2012, fine 2011, inizio del 2012, proprio nel 20° anniversario della fondazione della nostra associazione culturale. L'associazione culturale è nata nel 92, era stato Don Fabio Fattore, un sacerdote di Romeno, a volere creare questa associazione culturale, è proprio come un'associazione libera e con una, per un serio approfondimento culturale sulla, sulla Valle di Non. In Valle di Non ci sono tante associazioni molto attive, la nostra si caratterizza forse per voler divulgare in maniera scientifica la buona cultura, no? Ecco quindi che un'iniziativa non sporadica, ma che col tempo vuole arricchire le biblioteche dei nonesi e dei sinduni, dei tugliassi, se vorranno, ma anche ho visto che questa pubblicazione ancora oggi, quando viene intercettata in internet nelle biblioteche, ci viene ancora richiesta e ci vengono richiesti anche approfondimenti su quello che già di buono è stato scritto. Fa piacere anche avere qui con noi oggi pomeriggio Maurizio Visentini, anche lui noneso trapiantato in quel di Bolzano, Merano, di Amblar, che sia nel numero 1 che nel numero 2 ha approfondito la questione della viabilità con due interessanti saggi sul passo della Mendola e sul passo delle Palade. Magari se poi c'è qualche minuto di approfondimento, Maurizio è sempre molto schivo ad intervenire, ma se c'è qualche curiosità o qualche interesse, dato che sono i due passi che collegano la Valle di Non all'Alto Adige. Io adesso vi dirò bene o male i contenuti del primo e del secondo volume, ma poi, se avete la pazienza, se avete voglia, vorrei destarvi qualche curiosità su due aspetti, no? Che caratterizzano un po' la valle, che sono anche approfonditi in questi due volumi. L'aspetto degli eremi e degli ospizi. In Valle di Non, tuttora esistenti, ci sono circa una ventina di eremi ed ospizi tra quelli che si possono visitare e quelli che esistono come ruderi o come tracce. In passato erano molto di più, proprio per la caratteristica della viabilità e di collegamento tra mondi diversi. E poi la questione delle dimore gentilizie, perché in Valle di Non, più che in ogni altra valle del Trentino e direi anche della regione, hanno trovato radicamento moltissime famiglie della nobiltà sia maggiore che minore, e il risultato è che i centri storici, i borghi anche meno significativi dal punto di vista della popolazione, solitamente conservano importanti tracce del passaggio di queste famiglie nobili. C'è anche qui un preciso significato, ma lo vedremo più tardi. È vero che i nonesi si dice che erano furbi, no? E che insomma cercavano di posizionarsi così dove ritenevano di avere qualche vantaggio, ma è anche vero che questi vantaggi che magari hanno anche avuto si sono visti poi nell'operosità, nel costruire relazioni, strutture, progetti che hanno guardato oltre e che si possono vedere oltre la valle di Non. Ma poi vedremo più avanti questo aspetto. Nel primo, e poi ovviamente i due volumi sono qui consultabili alla biblioteca. Se poi qualcuno è interessato, noi abbiamo qui qualche copia e possiamo, se qualcuno è interessato, possiamo anche, possono essere anche acquistati, insomma, a prezzo di costo, insomma, per questa occasione. Nel primo volume di Anaunion sono presenti 8 saggi, 8 studi abbastanza approfonditi che spaziano dall'archeologia fino alle scienze. Il primo è un saggio di Franco Marzatico, che è l'attuale direttore dei musei provinciali del Castello del Buon Consiglio, tanto per identificarlo. È un archeologo esperto di popolazioni antiche, e ha presentato un inedito ritrovamento, due lingotti a graffa, che in tedesco li definisce Spagenbarren, e testimonianze dell'antica età del bronzo dalla Valle di Non. I più antichi ritrovamenti in Valle di Non risalgono ancora al Mesolitico, per cui migliaia di anni fa, con il ritrovamento a Revò proprio di qualche decina di anni fa, non secoli fa, addirittura di una statua a stelle, che era posizionata in un campo. Il proprietario l'aveva così riconosciuto, aveva individuato questo sasso, non ne aveva evidentemente riconosciuto le caratteristiche, ma secondo lui c'era qualcosa di affascinante intorno a questa pietra. Se l'era presa e portata nel suo giardino privato di casa. Sta di fatto che qualche anno dopo sono state ritrovate ad Arco le famose statue stelle del Trentino, di 2-3 mila, databili a 2-3 mila anni fa, a seconda un po' delle caratteristiche, e il farmacista del paese, che è un cultore di archeologia e di storia, ci ha visto anche lui un volto umano, una figura di una persona, l'ha fatta vedere dagli esperti e ne è risultata una statua a stelle che gli antichi nostri antenati veneravano e a scopi sia cultuali ma anche come proprio di venerazione. E questo saggio parla appunto di due ritrovamenti dell'età del bronzo. Successivamente il secondo saggio ci porterà al Medioevo con uno scritto di Bruno Ruffini, il nostro presidente, che poi prosegue sulla Naunion 2 riguardo la genealogia e la storia della famiglia dei Conti d'Arcio, una delle famiglie della nobiltà maggiore della Val di Non, ma anche del Trentino. Un saggio di Stefania Weger sul Palazzo dei Gentili, forse qualcuno lo conosce, una delle belle dimore gentilizie della Valle di Non. La casa, il palazzo, si trova a San Zeno, è attualmente di proprietà del comune, ma è anche la nostra sede dell'associazione, dove nascerà un centro studi culturale da Naunia, in questa sede. Un altro saggio molto interessante riguarda un palazzo di Casa Tuna Revò, dove all'interno è completamente decorato, seicentesco. È importante per Bolzano perché fu un ex sindaco di Bolzano, Ziller, il dottor Ziller, a intravedere in questo palazzo qualcosa di speciale. Era un palazzetto, sì, si sapeva che era della famiglia Tunche, aveva una certa storia, si vedeva solo dall'esterno. All'interno era completamente scialbato a calce bianca, addirittura la zona più importante dal punto di vista artistico era un fienile. Non sapeva se acquistare una casa o l'altra, voleva acquistarsi una casa a Revò per avere un riferimento anche domiciliare, e decise di acquistare quel palazzo. Lo fece vedere all'allora sovrintendente Rasmo, e lì ne è uscito uno straordinario palazzo, completamente una casa dipinta, le famose case Domus Pictae, no? Seicentesche, con delle decorazioni straordinarie. Uno di questi cicli, perché ci sono 6-7 saloni completamente affrescati, uno di questi cicli di affreschi rappresenta il mondo alla rovescia, un'iconografia rara nell'arco alpino. Ce ne sono anche qualcuno in Alto Adige, dove appunto in questo caso lui rappresenta scene di caccia. I cacciatori però non sono gli uomini, ma sono gli animali, per cui vedremo che le lepri sparano ai cacciatori, che gli orsi catturano e mettono nella pentola i loro aguzzini, che sono gli uomini. È un'iconografia particolare ed affascinante, che è illustrata in questo volume. Ovviamente potrete venire anche a far visita, insomma è una casa privata, raramente i proprietari l'aprono al pubblico, però abbiamo fatto qualche occasione, in qualche manifestazione, grazie sempre ai figli del dottor Ziller, si è potuto entrare, si è potuto ammirare. Saggio di Maurizio Visentin, un lembo di territorio schiettamente italiano, Grand Hotels e nazionalismo alla Mendola tra il 1880 e il 1940. Mendola è un luogo di passaggio, ma un luogo anche dove sono stati ospitati personaggi importanti e di passaggio, poi c'è un po' anche enfatizzato, no, questo ruolo della Mendola come luogo di soggiorno. Io non so adesso, ma Maurizio ci potrà dire quante volte c'è stato l'imperatore. Sicuramente due, forse tre. Ecco, due o tre volte, insomma, no? Sembra che adesso Francesco Giuseppe ci abbia fatto la sua residenza, no? Si è un po' mitizzata questa cosa, no? Ma che si sta due volte a Milano, eh? Sì, sì. Però se uno adesso dice Mendola, sì, e Francesco Giuseppe, no? Come se non fosse stato, c'era ben altro anche, no? Ecco, comunque sicuramente un luogo che un tempo aveva il suo fascino, oggi purtroppo un po' meno, no? Un po' meno sia dal punto di vista turistico, no? Ma anche con un certo degrado, purtroppo dico, ambientale, perché i grandi palazzi non sono più curati, il grande palazzo adesso è stato smembrato in appartamenti, quindi è venuto meno anche il ruolo storico, no? Altro saggio, compendio di geologia generale da Naunia, di un geologo, Armando Occhini, e un piccolo saggio ma interessante al quale mi riallaccerò poi con queste poche slide per farvi muovere da Bolzano un fine settimana e recarmi in Valle di Non, dove dice la natura al servizio dell'arte e della fede, perché questo geologo ha visto una correlazione molto stretta tra siti particolarmente interessanti dal punto di vista geologico con la presenza di eremi e di santuari. Se pensiamo a San Romedio su un puntone roccioso, San Biagio a Romaglio, lo vedete qui, completamente isolato intorno alla Forra del Novella, se non ci fosse il ponte non ci potremmo andare a tiro, no? È un'interpretazione suggestiva e particolare. E poi, per concludere questo primo volume, un saggio sulla fauna vertebrata della Valle di Non, quindi un piccolo riferimento anche alle scienze di Sergio Abram, che è un appassionato di fauna e di flora, non solamente della Val di Non, ma anche dell'arco alpino. Quindi tante cose, tanti argomenti interessanti. Il secondo volume è un po' più corposo, raccoglie sei saggi. Il primo riguarda la storia dell'arte, se qualcuno conosce la Valle di Bresimo, in particolare il santuario della Madonna di Bresimo, una valle vicino a Rumo, insomma, no, nella laterale alla valle di Rumo, c'è questo piccolo santuario della Madonna, e qui la chiesa è decorata ad affresco, e il pittore, il decoratore, si è ispirato alla passione di Albrecht Dürer per questo motivo iconografico della passione. La passione di Albrecht Dürer è collocata sulle pareti di una chiesa con affreschi, cioè lo stesso motivo iconografico è stato trasportato su una chiesa di periferia. Quindi si pensa a un pittore probabilmente di origine tedesca, o comunque conoscitore di un modello molto importante quale poteva essere Albrecht Dürer. E sicuramente una commissione anche importante, perché se in un paese sperduto nella montagna come Bresimo troviamo un'iconografia che si lega a un grande maestro della, della cultura rinascimentale, è chiaro che anche i committenti dovevano essere delle persone informate delle grandi correnti artistiche, no? Un collegamento con l'Alto Adige, anche il secondo saggio di Roberto Pancheri, un semplice pittore di paese, profilo di Matthias Lamp. Matthias Lamp era un, io lo definisco sempre nelle visite guidate che facciamo, nei nostri giri, nei nostri tour, un onesto pittore artigiano, amo chiamarlo. Matthias Lamp, Lamps dalla Valpusteria, viene in Valle di Non alla fine del Settecento, a Romeno in particolare, fonda la sua bottega, era un pittore popolare, piaceva molto, oggi diremo naif, perché rappresentava con gusto quello che i parroci e quello che le confraternite religiose gli ordinavano, e ebbe la fortuna di dare vita, di mettere in vita Giovanni Battista Lampi, molto più noto del padre, il pittore che ha viaggiato in tutta Europa, ha lasciato ben presto la nostra valle, già in tenera età, tra Vienna, in Russia, ha anche ritratto Caterina di Russia, famiglie della nobiltà in Polonia, tutto l'est Europa, e era conosciuto come il più abile ritrattista nelle corti d'Europa, insomma, apprezzato e poco conosciuto in Valle di Non. Rimane, per la verità, una sua opera incompiuta, dico incompiuta perché è stata poi all'inizio dell'Ottocento terminata dal figlio, che anche aveva seguito le orme del padre, Giovanni Battista Junior, ha lasciato in dono al suo paese la famosa pala dell'Assunta in Cielo, che ora si trova a Romeno, la donò proprio al suo paese natale, e tutt'oggi, ancora ad oggi, il giorno del 15, lui lasciò nel suo testamento, alla morte, lasciò questa pala alla comunità di Romeno, proprio per, come ringraziamento per aver dato soprattutto il lavoro al papà e essere cresciuto in quel paese, e vuole essere ricordato semplicemente con una messa il 15 di agosto di ogni anno. A tutt'oggi gli abitanti di Romeno, il 15 di agosto, giorno della sagra del paese, perché la chiesa è dedicata all'Assunta in Cielo, si ricorda Giovanni Battista Lampi. Passiamo poi al terzo saggio, che completa sostanzialmente la storia di Bruno Ruffini sulla genealogia della famiglia dei Conti Arzio, e andiamo fino al XX secolo con diciamo, quando la famiglia, questa importante famiglia della nobiltà maggiore, chiude i battenti perché non ci sono più eredi. Rimangono di questa famiglia un importantissimo archivio storico e soprattutto molti palazzi disseminati in mezzo Trentino. Un altro saggio di una famiglia Thun riguarda uno dei personaggi importanti della famiglia, Carlo Cipriano Thun, vita, morte e miracoli, perché questo personaggio è un personaggio abbastanza interessante. Appartiene a uno dei tanti rami della famiglia Thun. Thun li conosciamo per il castello a Vigo da Naunia, però la linea di Castel Thun, proprio diremo oggi, ha dato poi origine a tutta una serie di linee più o meno importanti o più o meno fortunate, tra le quali quella di Castelfondo, dove esiste ad oggi il castello abitato e ancora con le eredi, ci sono le contesse Thun. Una linea che chiamiamo oggi Boema, che era partita da Castelfondo. La linea Boema è stata molto importante, e poi anche questa corsi e ricorsi della storia, dalla Boemia sono tornati in, con Zenko Thun, sono tornati in Valle di Non all'inizio del Novecento, hanno acquistato Castel Thun perché la famiglia la Thun Nonesi erano in fallimento, con Matteo Thun, grande personaggio, e in Boemia troviamo molte tracce di questa linea. Tra l'altro dall'8 non posso invitarvi perché abbiamo già completato, ma lo riproporremo in primavera e magari manderò anche la, sì, ma se qualcuno mi lascia la mail magari posso informarvi. Abbiamo organizzato proprio come associazione un tour alla riscoperta dei Thun in Boemia, e dall'8 all'11 dicembre, 4 giorni, andremo a Praga come punto diciamo di domicilio di questi 4 giorni. A Praga l'attuale palazzo dell'ambasciata italiana è Palazzo Thun, in Malastrana, che è la città antica, esiste una via Thun, proprio una via Thun. Il palazzo dell'ambasciata inglese è un palazzo Thun, A Decin esiste la cittadina di Decin con il grande castello che era il castello dei Thun, e con altre presenze interessanti per quanto riguarda la committenza religiosa, una cappella dedicata a San Giovanni Nepomuceno, culto poi portato anche nell'arco alpino, no? In Valle di Non in particolare esistono molte statue di San Giovanni Nepomuceno, protettore contro i nubifragi e contro il cattivo tempo. Infatti sul ponte, se qualcuno è stato a Praga, sul ponte Carlo c'è la statua dedicata a San Giovanni Nepomuceno, e lì si dice che sia stato annegato, per cui è invocato contro le acque, no? Diciamo. Ecco, a Decin tra l'altro esiste un interessantissimo archivio storico di tutta l'epopea dei Thun in Boemia. Andremo a Klasternac, anche qui una linea ha costruito o ha occupato un importante palazzo con castello, e poi andremo in un'altra cittadina che però non possiamo visitare, andremo a... adesso mi sfugge il nome, comunque un'altra cittadina dove è presente un'interessante cappella dedicata, guardate, a San Romedio. San Romedio di Boemia, in questa cappella interessantissima, purtroppo non possiamo metterci piede perché le autorità boeme un giorno c'è un matrimonio, un giorno hanno una... praticamente non possiamo entrare in quei 3 giorni che siamo lì, nonostante abbiamo coinvolto l'ambasciatore italiano, e non possiamo entrarci. È interessante perché i Thun hanno commissionato un ciclo di affreschi con delle vedute della Valle di Non, quindi uno scorcio di Valle di Non in Boemia sconosciutissimo e interessantissimo da visitare. Questo pertanto per riagganciarci un po' a quei nonesi che hanno lasciato la Valle di Non e si sono un po' sparsi nel resto d'Europa. Altro saggio dedicato a un personaggio di fondo, Adolfo Bertagnoli, ritratto di un socialista, e poi l'ultimo saggio, La strada del sale, la via delle palade dalla preistoria al XXI secolo, Maurizio Visentin, che in questo saggio ha così ripercorso l'importanza di questa via di comunicazione, non solo per la mobilità recente, ma soprattutto ancora dalla preistoria. Questi sono un po' i contenuti delle due antologie. Come vedrete, o potete sfogliare, potete prenderli in prestito, potete acquistarli se volete, abbiamo voluto dare un'impronta sì divulgativa, ma anche prettamente scientifica, cioè tutti i testi sono stati affidati a studiosi di comprovata esperienza, sono corredati da note, però sono anche piacevoli perché si è cercato anche di inserire una buona quantità di immagini, di didascalie che possano rendere anche un pochino più godibile ai meno addetti ai lavori, questi saggi, che comunque sono stati molto apprezzati anche da coloro che non sono proprio dentro nelle faccende di storia, di arte, per coloro che non sono, diremo oggi, specialisti del settore. Ora stiamo raccogliendo i saggi per la Naunion 3. Se qualcuno di voi ha qualche argomento, ha qualche curiosità, ha qualche proposta da fare, o ha nel cassetto uno studio che vale la pena essere pubblicato, evidentemente che riguardi il territorio della Naunia, ma anche con qualche riferimento, siamo anche più aperti, non vogliamo mica chiuderci tra le Palade, la Mendola e la Rocchetta, no? Insomma, no? Siamo ben disposti anche a valutare approfondimenti diversi da quelli prettamente riguardanti la Naunia. L'importante è che ci sia un collegamento se non altro di contatto umano, ecco, con il nostro territorio. È chiaro che per un'associazione culturale una pubblicazione di questo tipo richiede non solamente del tempo per gestire la raccolta del materiale, la correzione dei testi e quant'altro, ma anche un investimento importante, che noi lo riteniamo un investimento culturale. E quando, io credo, nonostante la tecnologia, i pad, i PID, adesso ne inventano tutti i colori, presto andremo in giro con una tavoletta e leggeremo, ma non credo che sarà così, almeno per le persone che sono ancora affezionate alla carta. Io credo che quando nasce un libro e quando possiamo sfogliare e vedere con i nostri occhi delle pagine illustrate e scritte ancora con l'inchiostro, si ha molta più soddisfazione che non leggere delle notizie in internet, no? Per cui un investimento culturale che purtroppo ai giorni d'oggi diventa sempre più difficile, soprattutto perché è un investimento che in termini di risorse è notevole, insomma, perché una pubblicazione curata e con tutte le caratteristiche scientifiche e grafiche, anche perché un bel libro se lo è anche confezionato bene, costa, ecco. Per cui, però, è una bella soddisfazione quando queste cose si possono divulgare, si possono raccontare, si possono soprattutto tenere in mano e leggere. E poi un'antologia di studi è sempre piacevole, perché ti lascia spaziare un po' su tanti argomenti, no? Non è un romanzo, non è un, diremo, uno studio monografico che si fossilizza su un determinato argomento. Va benissimo anche quelli, li pubblichiamo. Poi ho portato qui alla biblioteca quasi tutte le nostre pubblicazioni, se qualcuno è interessato possiamo, insomma, farvele avere, magari le consegniamo qui e potete passare a ritirarle, perché ci teniamo molto ad approfondire soprattutto quei personaggi che oggi non sono più conosciuti, soprattutto dalle nuove generazioni. Quindi abbiamo molte pubblicazioni su personaggi che hanno detto e dato molto al territorio trentino e alla Val di Non in particolare, e poi qualche studio anche su qualche edificio particolare, su qualche monumento, su qualche chiesa, su qualche eremo meritava di essere approfondito, oppure che non possedeva ancora una pubblicazione ad hoc. Io vi farei vedere qualche, se siete d'accordo, se non vi ho annoiati fino adesso, no? Vi farei vedere qualche diapositiva, così se un giorno volete venire in Valle di Non, se qualcuno, l'abbiamo fatto qualche volta, se qualcuno appartiene a qualche circolo, a qualche associazione culturale o agli anziani, poi non si dice più anziani, no? ai pensionati piuttosto che a qualche circolo, e volete venire un pomeriggio, una giornata in Valle di No, possiamo anche organizzarci e portarvi a fare un tour, diciamo, se non altro con uno sviluppo di una certa logica, perché a me piace sempre organizzare le cose tematiche, no? Non possiamo mescolare di tutto un po', no? Cerchiamo di organizzare un percorso logico. Ecco, diremo che uno di questi percorsi potrebbe essere proprio quello degli eremi e degli ospizi, perché qui vi ho elencato quella decina di siti ancora oggi visitabili e importanti, ma ce ne sono almeno tre volte tanto di tracce di segni che il tempo ha nascosto e che comunque compaiono nei documenti o nelle antiche fonti. Qui vi trovate a San Biagio, a Romallo. San Biagio si trova sotto San Zeno, tra San Zeno e Revò, e qui vedete che già questo sito si trova isolato sullo sperone scavato dal Rio Novella, è oggi collegato dalla strada provinciale, la strada 74, no, del Novella appunto si chiama. Un tempo si accedeva solo da sotto, quando il lago ancora non c'era, e si risaliva da una stradina. Oggi è stato ristrutturato, è di proprietà privata, ma è documentato già nel 1200, si parlava di una comunità di religiosi. Per la verità, in questo sito l'uomo è vissuto già molto prima, perché troviamo una lapide romana che oggi è incastonata nell'altare maggiore. È una bellissima, un bellissimo cippo funerario dove il marito dedica questa lapide agli dei Mani, vedete, si legge qui VM, alla sua moglie, coniugi carissime, la sua moglie carissima è Serania Procella. Allora capite che Serania Procella è un nome romano, insomma, no? Quindi una presenza in questo luogo di una lapide romana più a nord, a Revò, a qualche centinaio di metri. Un simile cipo è stato ritrovato invece con una probabile donna, Ponzia Gusceda, il nome non Ponzia, Gusceda, il nome è tipicamente locale, insomma, no? Almeno da quello che dicono i linguisti. L'interno con il pozzo nella chiesa, qui prima dei restauri, e la caratteristica di questo eremo è proprio la presenza di due chiese gemelle. Questa è la chiesa maggiore, con l'altare seicentesco in arenaria, e poi adiacente questa piccola basilichetta. È una vera e propria basilica mignon, diremmo, proprio minuscola. Ci si passa tra una colonna e l'altra, in due si fa fatica. È proprio una basilica a tre navate, con sei colonne. Questo comunque è sempre San Biagio. San Biagio. Sono attaccate da una c'è una porticina che collega la chiesa maggiore alla chiesa minore. Allora qui c'è anche un discorso di impostazione architettonica, perché è raro trovare le due chiese gemelle, soprattutto nei siti minori. Oggi si pensa, all'ipotesi più accreditata è che esisteva una chiesa estiva e una chiesa iemali, si dice, una chiesa estiva e una chiesa invernale, per cui quella più grande era utilizzata d'estate e quella più piccola più facile da riscaldare l'inverno. In questo contesto si fa avanti anche, prevale anche l'ipotesi che nella chiesa più grande potevano starci tutti coloro che abitavano l'eremo, perché questo eremo, qui potremmo fare una conferenza su questo sito, no? Ve la accorcio. Questo eremo nel Medioevo era un lazzaretto, un lebrosario, quindi probabilmente in uno spazio potevano assistere ai sacri riti i malati, in questo un po' più piccolo solamente religiosi o chi conduceva vita comune. Ma questo è veramente un gioiellino del romanico sconosciutissimo, e che grazie, insomma, adesso alla disponibilità della famiglia è anche visitabile su richiesta. Vedete che qui facevo riferimento a qualche altra cripta romanica. Qui troviamo il Duomo di Gurk, la chiesa di Santa Croce nel Bleggio, che presentano i capitelli simili a quelli che troviamo a San Biagio. Vabbè, San Romedio, non stiamo qui anche qui dal culmine dello sperone alto quasi 100 metri, si sviluppa tutto il santuario, anche qui presenze ancora paleocristiane, quindi con ritrovamenti addirittura e anche degli uomini, dei primi uomini, insomma, con lance, selci scheggiate, quindi siamo ancora 2-3 anni prima di Cristo. È chiaro che tutti questi siti particolarmente suggestivi hanno una frequentazione che va oltre l'età del cristianesimo, no? Cioè, troviamo delle frequentazioni molto antecedenti che ci fanno anche ragionare sulla trasformazione dei siti pagani in siti del cristianesimo, no? Addirittura tra il passaggio dall'era pagana all'età cristiana c'erano proprio dei riti che si chiamano riti di esaugurazione, cioè si sconsacravano gli edifici, no? Le antiche basiliche romane, per niente non si chiamano basiliche anche quelle cristiane, no? Dagli antichi riti pagani a quelli cristiani si utilizzavano, se non le murature, sicuramente il materiale di recupero, no? Quindi le spoglie, le famose spoglie romane, che ce le troviamo nelle murature delle grandi cattedrali e delle grandi chiese cristiane, no? Ecco, vi ho messo la foto del bellissimo portalino di Aricarda che collega la chiesa superiore alla piccola cappella delle reliquie. Questo portale è molto importante per la scultura romanica del Trentino Alto Adige perché è un unicum, è anche un portale che sicuramente non è stato costruito per questo luogo, perché i piedritti della porta e anche l'architrave nasconde delle sculture. Cioè, le nasconde proprio, sono nascoste, quindi si capisce che probabilmente questi pezzi sono stati smontati e rimontati da un'altra struttura. Si pensa dall'antica chiesa di San Zeno, la basilica dei Santi Martiri, è stata demolita nella fine del 400 dal vescovo Inderbach per costruire quella più grande odierna, quando avevano ritrovato l'urna con le ossa combuste dei tre martiri. Quindi l'antica chiesa romanica, oggi a San Zeno romanico c'è solo il campanile, probabilmente si pensa che il portale provenga da San Zeno e sia stato rimontato qui a San Romeo, proprio perché sull'architrave troviamo queste tre squisite facce, si pensa siano Sisinio, Martirio e Alessandro. Qualcuno dice San Romedio e i due compagni, Abramo e l'altro che adesso non ricordo. Troviamo anche una scritta, la troviamo qui in questo spazio, che dice: a Ricarda Munica, la monaca Ricarda, fecit elaborare ista porta maester Tome, fece fare questo portale dal maestro Tommaso, MCC con due C alla rovescia. Gli storici, ma adesso insomma gli studi sono andati anche avanti, 1200. Io non ci credo molto, ma perché avere un portale firmato, datato in un'età medievale, è vero che non siamo nell'alto medioevo, ma ci stiamo avvicinando un po' anche al basso medioevo, però è raro trovare, se non nei grandi cantieri del Veneto, no? con i grandi scultori, i grandi maestri scultori, è raro trovare nell'arco alpino in età così già nel 1200 un portale firmato e datato. Non c'era ancora la consapevolezza dell'artista di firmarsi, no? Io penso che possa essere interpretato come una scritta successiva. Si tramanda, la monaca Ricarda ha fatto fare il portale, un giorno abbiamo detto ce lo scriviamo su 1200. Boh. Comunque c'è scritto. Ecco, vedete le testine tipicamente romaniche e poi il sacello delle reliquie con queste pitture che si collegano molto bene all'Alto Adige con i grandi cicli di affreschi della Val Venosta, li ritroviamo molto simili a Annales, a Naturno, insomma, questi motivi decorativi li troviamo a Termenio con questi mostri fantastici, con queste figure tra l'umano e il mitologico, no, che si snodano nella parte bassa del proprio modo di tenda, di tendaggio, e le ritroviamo molto simili. Infatti si parla per Saro Medio di scuola venostana, anche un bellissimo percorso da fare partendo da Malle, Munster, nella sua santa confine, no, a San Giovanni, a Tubre, sia di qua che di là. Ancora più affascinante sul territorio ancora dell'Alto Adige, come di San Giovanni. Tra l'altro sono stato con i miei insegnanti, che li ho portati in gita a giugno, e volevo portarli di là del confine, a proprio a San Benedetto. Sì, a parte la carta d'identità si paga un patrimonio per entrarci, è ben patrimonio dell'umanità quel sito lì, ma 25 euro per entrare. Ho detto, se in Val di Non ci mettono su una roba del genere, ci tagliano via la testa, oppure noi va a Messa, si paga moltissimo, sono rimasto, mentre negli altri siti no, si paga un giusto, insomma, potrebbero anche aumentare, perché un euro, due euro, no, queste piccole, bellissimo a Naturno, insomma, no? San Procolo, un gioiellino. Comunque si parla di pittura venustana. Ecco, un altro luogo sconosciutissimo, Santa Giustina del Mulo. Il nome del lago di Santa Giustina deriva proprio da questo sito. Qui siamo proprio in un anfiteatro naturale, proprio una conchiglia scavata enorme nella roccia. Qui troviamo le tracce dell'antico romitorio di Santa Giustina, proprio io l'ho definito un girone dantesco, perché ti sembra di scendere fuori dal mondo, non si vede neanche il cielo quando si è sotto, in questa conchiglia naturale che avvolge questo eremo strepitoso, e si scende sotto la diga di Santa Giustina, sostanzialmente nella forra, quando ci passate o col tram o con macchina, e giù sotto lì si scende da Dermulo a piedi. Luogo affascinante, eremo di Santa Giustina. San Gallo a Cagnò, anche questo a picco sul lago, oggi nel tempo il lago non c'era, un eremo che abbandonato nel 1700 perché ritenuto proprio sui documenti una spelonca di ladri. C'era, vi racconto questa storiella così fa anche un po' ridere, c'è proprio il documento dove il vescovo, la popolazione di Cagnò è sopra Cagnò, allora Cles si scende giù al lago di Santa Giustina, al ponte di Santa Giustina, Cagnò, Revò, si va a fondo oppure ci si ricollega a San Zeno. Insomma, la gente era, lì c'era giù un certo Giovanni che era un eremita, lui si definiva mezzo laico, mezzo religioso, un eremita, e la popolazione di Cagnò scrive al vescovo, ai visitatori che erano venuti in via, e gli hanno detto: vai giù a vedere cosa fa il vostro eremita, perché tutte le sere viene su a Cagnò, non fa altro che andare nelle cantine a bere groppello, che era il famoso vino locale, è continuamente ubriaco, chiudete su tutto perché sto qui vi mangia la reputazione. E da quel momento era stata definita una spelonca di ladri, hanno chiuso, e oggi troviamo solamente la piccola abside nella roccia, una traccia. Ecco, Santa Merenziana a Tueno, che questo isolata nella valle, ancora ben conservata. E poi passiamo al discorso della nobiltà maggiore. Allora, un percorso potrebbe essere quello degli eremi, dei santuari, e ve lo ritrovate in uno di questi saggi. Come vi trovate in uno di questi saggi? L'approfondimento su due o tre dimore, per cui casa Fina Revò, casa dei Gentili, che ve la trovate in facciata, in questa slide, la facciata prima dei lavori di restauro. Oggi la casa è stata completamente restaurata, il piano superiore è destinato a San Zeno, è destinato, qui c'è l'imbocco per San Romedio, qui sotto c'è la basilica, è destinata a sede espositiva, e qui invece è la nostra sede dell'associazione, con questa nascente polo culturale. Ecco, nel 1556 in Valle di Non le famiglie di nomina vescovile nobili erano 275 e 26 quelle di nomina tirolese. In Valle di Non c'è la caratteristica che le due poteri, a parte che il vescovo esercitava anche il potere temporale, ma comunque i due poteri maggiori erano in mano al conte del Tirolo e al principato vescovile. Qui le famiglie ricevevano la nobiltà maggiore soprattutto se erano fedeli all'uno o all'altro dei due poteri. È chiaro che il principe vescovo esercitava territorialmente un potere più vasto, mentre il conte del Tirolo era più nella giurisdizione di Castelfondo e in Alta Valle di Non, no? Don Amblar, le propaggini in Alta Valle di Non era sotto la giurisdizione del conte del Tirolo. Ecco, non vivevano la nobiltà minore, non viveva nei castelli ma di more, di una certa valenza, riconoscibili all'interno dei centri storici, e cognomi come Cles, Bernardo Cles, principe vescovo, cardinale, per qualche fatto avverso, insomma, non è diventato papa, colui che ha promosso anche il concilio di Trento a Trento, insomma, i Thun, gli Spaur, i Livo, i Coredo, i Denno, poi è diventato Denno anche il paese, i Cagnoli, Arcio, tutti i cognomi che insomma denotano una certa storia. Bernardo Cles l'abbiamo nominato, il castello che domina la Valle di Non oggi ancora al Baron Cles, di proprietà del Barone di Cles, purtroppo non visitabile, una rara immagine dell'interno, vedete, con le decorazioni nel sottogronda. All'interno ci sono anche degli affreschi di Marcello Fogolino, della scuola cinquecentesca, che dipinsero anche il castello del Buon Consiglio. Le maestranze erano quelle sostanzialmente, vedete, figure di grottesche la qualità anche in valle. Sì, una sinopia bassanesca, sempre a Castel Cles, con una scena di vita contadina. La sinopia, sapete cos'è? Se qualcuno magari è esperto di storia dell'arte, la sinopia era la bozza, no? La bozza trasferita su muro. Sinopia, da Sinope, che era una località nell'Oriente, dove si estraeva questa pietra rossa che serviva per fare le bozze degli affreschi, no? Allora qui evidentemente c'era l'affresco, col tempo è caduto il colore, è rimasto sopra lo schizzo, diremmo, no? La sinopia serviva ai committenti per far vedere, l'artista voleva far vedere quello che sarebbe venuto, come dire, guarda, io ti faccio questo, ti va bene, altrimenti cambiamo, e rimane questo. Ecco, vedete, stemma clesiano con le nappe cardinalizie, vescovo si ferma a tre, vedete? Il terzo ordine di nappe è simbolo del cardinalato, no? Vari affreschi all'interno del palazzo con segni della metamorfosi, Castel Belfort, la Spol Maggiore della famiglia Spaura, che questo è in rovina, ci sono solamente murature, Castel Braguer, Castel Valer, ancora di proprietà del conte Spaur, visitabile per qualche giorno all'anno perché la provincia è intervenuta con un finanziamento. Castel Caldés, della famiglia Thun, un ramo di quelli che non sono andati a Castelfondo, che non sono andati in Boemia, si erano trasferiti in Val di Sole. Poi quelli che non avevano casa in Val di Sole, quelli che non avevano casa a Castelfondo, a Thun o in Boemia, o frati, non mica frati, no? Vescovi o cardinali, perché insomma l'ultimo principe vescovo con potere temporale è stato Pietro Vigilio Thun, che con le rivoluzioni napoleoniche ha dovuto lasciare il suo potere temporale. Ossanna, Castelnanno, uno dei bei castelli in Valle di Non, esistono solo le murature così, di impronta palladiana, è proprio perfetto come simmetria, tanto si dice che sia stato disegnato da Palladio, ma non è vero, ma proprio la simmetria, la purezza, la linearità, parlano di uno stile cinquecentesco nell'architettura, no? E beh, dopo Casteltun che lo avrete visto, altrimenti andate a visitarlo. E questa erano la nobiltà maggiore, e qui è il palazzo assessorile di Cleves. La nobiltà rurale invece erano tutte quella serie di famiglie che a sua volta giuravano fedeltà a queste grandi famiglie della nobiltà maggiore e che si distinguevano all'interno del tessuto urbano per le loro case, con le torrette, con le famose case completamente dipinte all'interno, con murature massicce. Le case della povera gente erano le fondazioni, erano un po' come quelle rettiche, no? Le fondazioni di muratura e poi tutto legno, veniva un incendio, si bruciava tutto e via. Quelle della nobiltà invece erano molto più sicure, molto più, diciamo, possenti. Ecco, queste nomi di famiglie della nobiltà minore, Concini, Cles, Betta, Inama, Maffei, Menghini, Martini, Spaur, beh, questi erano ancora della Wiesentheiner, Ziller, Zini, tutti i cognomi che trovate ancora in Valle di Non. E poi esempi della nobiltà, vedete, case possenti, importanti, solito con bifore, portali decorati, torrette, che sono anche una caratteristica dell'Oltradige. Se andiamo qui nella, ecco, ce ne sono a Ora, no, anche a Enia, a Piano, qualche casa con torretta, era proprio un stile d'Oltradige che veniva anche poi, vedete, bifore, portali decorati, case ancora dei gentili, loggette, finestre inferriate per la protezione, interni particolarmente decorati, qui siamo a Donna, al Palazzo Endrici, a Cavareno, un'altra casa gentilizia, a Livo, Casa Marta Corido, un bellissimo palazzo, anche questo ora restaurato, un altro palazzo un po' in rovina a Cavareno, Castello di Meckel, la casa dalle mille finestre, da tu finestre, a Pavillo, palazzo bellissimo, il palazzo Morenberg cinquecentesco a Sarnonico, Casa Campi a Revò, Androni, portali decorati a Casese, Casa Sarclecchi, Casa dei Preti Sacagnò, basta. Poi andiamo, c'è un altro itinerario. Due cose ce ne sono, e basta avere la voglia di recarsi sul territorio. Se avete qualche curiosità o qualche domanda... Il nome è venuto di Anaunia, credo, collega, o qualcuno lo collega ad Annona, ma sicuramente pre-latino, perché i romani sono arrivati poco prima di Cristo e avranno trovato già, insomma. Evidentemente se c'era Anaunion prima è chiaro che non regge questa cosa. E poi che qualcuno lo dice, insomma, no? Però era un nome indigeno che c'era stato di origine retica e quindi va per la pesca. Probabilmente è giusto, insomma, che romano di sicuro. Sicuramente una valle che ha avuto dei grandissimi vissuti dimostrabili anche dall'archeologia, no? Perché andiamo dalla torbiera di Castelfondo con gli uomini primitivi proprio nel vero senso della parola, diciamo all'età del ferro, all'età del Luco sul Monte Ozelo, insomma, ai luoghi sacrificali di Cles e di Meckel. Andate a vederlo al Museo Rettico a San Zeno, c'è proprio un salto, si chiama il pozzo nella storia, molto affascinante, dove viene rappresentata, ma non solamente la storia della Val di Non, la storia della Val di Non si può trasportare idealmente un po' anche nell'arco alpino, no? Perché queste popolazioni poi andavano a stanziarsi nei luoghi dove c'era l'acqua, dove c'era la possibilità di coltivare, dove c'era la possibilità di cacciare sostanzialmente. È chiaro che non si insediavano dove non c'era la possibilità. Esatto. Esatto. Molto più andato di civiltà, di culture. Visto che c'è un cenno sulle strade, sulle palade, sulla mendola. Maurizio Visentini, vieni. No, volevo chiedere perché non si parla anche della ferrovia? Abbiamo una pubblicazione proprio. Avremmo avuto una pubblicazione che però è esaurita, abbiamo solo una copia nella nostra sede, che si intitola Comodamente seduti un po' di acqua. Dovrebbe esserci comodamente seduti sulle nostre carrozze, che parla della storia della perché lì si sa poco, funicolare. Non ho mai trovato. C'è un libro di Maurizio Visentin pubblicato da noi, purtroppo esaurito, altrimenti ve l'avrei portato, però c'è in biblioteca. Io ho trovato. Prova a chiedere se. Io ho trovato nella casa di mia moglie la biografia di Lanzarotti. E naturalmente, visto che è stato lui il progettista, sarebbe bello conoscere meglio il percorso, la storia di questa ferrovia. No, ma c'è una pubblicazione. Ho capito, però dico, non l'ho mai vista in giro, non ho mai saputo. Dovrebbe esserci qui, vero Maurizio? Altrimenti ci sono le biblioteche, sicuramente in Alto Adige c'è. Noi ne abbiamo solo una copia, altrimenti ve la presterei.